attenzione 10, c'è qualcuno. Cici. Antonia. Antonia sei tu. Cici sei tu. Così impari. Scappa. Aspetta un attimo che entro in bagno, Antonia, accendo l'altro apparecchio. Il bagno? Cazzo mamma così. Cazzo poi accendo l'altro apparecchio in bagno. Senti, sei tu, di tu. Cosa sei di zente? Vado in sala, vado. Ah, in sala, metto. Mi ti aspetta che. Accendo la tappaletta e poi vado in bagno, mi hai detto. Poi, che cazzo ho pensato male? Entro un attimino in bagno e poi vado in sala. Ah, va bene, fai con cosa, dov'è? Antonio, ci sei? Sì, sono qua. E cappa, cappa. Eccomi qua, La voglia. Ti sento bene. Questo è il cobra, Cosa ti sei preso? Cos'è tanto è? Ti sei preso il cobra? Poi ho fatto scambio. Senti, com'è venuto? Meglio così. Avanti il bip che è. Avanti il bip che ha schiacciato due volte. Oh, sarà qualcuno là fuori. Sentivo una portante, sentivo. E anche ho sentito una portante, la verità. Sento il bip, però non so che è. Com'è buono di modulazione? Sì, 9.20 sei qua, radio 5. Ti ho detto, di modulazione com'è buona? Sì, radio 5. Già, va bene, dai. Un secondo, mi sta chiamando Simona, 2 minuti. Sì, tranquillo, non ti preoccupare. Hola, hola. Sono di entrata. Adesso sono qua, già, sono. Non sta facendo più così, concerti adesso. Cioè, non si più i concerti adesso, adesso toccherà la prossima settimana. Che cosa? Non so se ci sono concerti, anche per il restante. Venerdì c'era il come si chiama? Avevo organizzato per ballare fino alle 4 del mattino, quindi figurati, lì vicino a Cosso, e a circolo di Natalocce. Alle 4 del mattino? Sono iniziato verso le 9.30, mi ti credo che ero iniziato verso 9.30 di notte, finito minimo alle 4 del mattino. C'era la musica, c'era tutto, e stavo ballando, mangiando, panini imbuttiti e la pagina. Non si può fare. La musica a mezzanotte la devi abbassare, se no ti rompono le scatole. Non lo so, penso che l'abbiamo fatto, qualche cosa su qui. Mi sembra alle 10, se non sbaglio, alle 9.30, una cosa del genere, una strana. Per poter andare a cosa? Mangiare panini imbottiti e ballare. Poi c'è la fisarmonica fuori, c'è scritto fuori, non dentro, fuori proprio nel piazzale. Ah, devono fare la serata, io sicuramente chiamerà a me pure se voglio venire a lavorare questi giorni. Sicuramente chiamerà a me. Sì, l'ha già fatta la serata, l'ha fatta venerdì. Cioè, non venerdì, venerdì l'ha fatta. Poi sabato ha fatto pranzo. Ho capito. Venerdì sera l'ha fatta, poi sapete, infatti non ci sono. Vabbè, non sono neanche andato, io ho detto. Adesso poi sabato c'era, oggi c'era il pranzo, a me le favole mi piacciono, quindi a un certo punto ci vanno sabato prossimo. No, adesso sta bene lì, ma so che sta cominciando ad avere qualche problema, perché a molti non, perché quelli non, cioè, bisogna tesserarsi. Poi cominciano ad avere problemi. Non lo so, la verità non ce l'ho detto, io non è che ci vado tutti i sabati, no? Quando c'è solo ci vado, se no gli altri mi muovono qua, ma lo sai, i soldi sono soldi, non è che... E sono del cielo di cose, mangi tutto quello che devi mangiare, però la pedra devi pagare, non è che mi bisogna mettere una birra, no, e ti mangi prima, secondo e terzo, cioè vuoi almeno due o tre, per andare bene, poi prendi i piedi alle 5 quando è finito a mangiare, perché si finisce a quell'ora, prendi i piedi e te ne vai. C'è il caffè, poi ti prendi una mazza caffè e ti innanzi. Sì, già lo so, già ci sono andato pure a mangiare. Ora non ho mai tempo io, non ho mai tempo. È un casino per me. Gli ho capito, no? Questa settimana non ci sono andato. Non so, penso di andarci la prossima settimana, se vediamo un po'. Se mi organizzo. Vado e mi faccio le... mangio il pranzo. Dopodiché alle 5 per di più me ne vado. Cioè, tanto quando farò 13 supera 8, 13, vabbè, invece di subito supera 8, allora mi piglierò una bella casa dove la stanno costruendo su alla fine di Milano, me la prendo lì, ti piatto la bella antenna lì sotto al traliccio, quello che parte da terra sale fino a sopra e la qualità è dove appunto. Ma magari io però vado molto meglio a Porto Torres a confronto agli altri, o sono medio, dai, sono medio, già che io ho le mie zone buone, le mie zone che sono negativo, per la Budi sono arrivo forte. Sì, per la Budi sei abbastanza aperto, poi sei aperto per Porto Torres, per la Tamona, Sorso. Tu c'hai tutta quella zona lì, poi c'hai la zona di Mancavi, Monteoro, Alghero, eccetera, eccetera, perché c'è tutto un fianco, ce l'hai. Hai capito? Non ti credere che per Sorso sia apertissimo, forse più per Sennori. Io Sennori sono aperto solo in un punto dove c'è ripetitore. Infatti da qui ascolto la Russia, la roba che non ho mai sentito io quando abitavo in Galizia. Da lì ascoltavo la Spagna, Francia, Portogallo, Brasile, americani, eccetera, eccetera. L'altro non mi arrivava, tutto quella zona lì era tutta contaffetta perché c'era la tomba di Alghero. Bosa Marina, hai capito? Tutta quella zona lì, tutta aperta per me. Tutta zona dei Corsieri, Tiesi, eccetera, eccetera, Mores, come ti posso dire, Tempio, la tomba di Udinuoro. Infatti capito che tu, ma quando non ci sono più lì, in automatico mi è salito tutto. Il discorso è quello. Beh, tu che vai con le panze, vabbè. Se fossi stato in quella palazzina più avanti prima di abitare nel distretto, sei tranquillo che da lì sopra, con 7 piani, ti avrei fatto mangiare i soci verdi, ti avrei fatto mangiare. Da lì era una cosa allucinante, si vedeva tutto si vedeva, era una cosa allucinante. Quello parlava con Basile, parlava con l'America, parlava con la Francia, la Germania, come se fosse io al telefono parlava. Noi poi gli hanno fatto staccare tutto perché il suo babalo quello lì c'era quei televisori, quello vecchio, quindi gli hanno fatto staccare tutto. Ma deve essere che era aperto lì, sicuramente era molto aperto. Vabbè, ogni zona c'è il suo becco, il suo pro, il suo contro, ogni zona. E quello già lo so anch'io, ma discorso è quello lì. Adesso se tu vai per dire abitare in quel palazzo non ti fanno pensare un cazzo, questo è poco ma sicuro. Perché ne avevo già avuto esperienza già con uno, figurati terzo con secondo, se non vi sia da C, è stato per dire, è andato anche da sopra, immediatamente ti ricordi, no? Questo è poco ma sicuro, anche se sono cambiati i tipi di missione, hai capito, il discorso è quello. Pensano magari che al minimo segnale strano, eccetera, eccetera, c'è il baracchino, quindi automatico me lo fanno staccare. Sono le panzine e tutto può fare così e basta. Però sono, io ho fatto un impianto lì e si succede quella cosa allucinata, è talmente alto che è bello farci delle fotografie, carino. Si vede tutto, l'acustica, la sinala, tutto si vede da lì sopra. Il punto più alto che c'è è lì a parte il palazzo di Claudio. Ma dove sto dicendo? Dove c'è Pilo, di fronte a Pilo quello che fa le ferramenta lì del centro, nel palazzo di fronte a lui. Sopra di, io mi ricordo che c'era un'antenna lì, era la tua, era sopra di Pilo tu abitavi. Non sopra, di fronte a dove lavorava Pilo. C'era un palazzo e lì c'era un UCD che modulava. E adesso non c'è più, ha cambiato casa. casa, ho cambiato il padre e lavora in pratica in banca, vabbè, adesso in pensione. Si chiama Alessandro, si chiama di nome, quindi figurati tu, c'era la, come quella c'era tuttora, la Super Lem, adesso è più deficiente uno del capito che aveva, quindi figurati, non ho più sentito né visto, non so che fine abbia fatto. Usciva fortissimo quello lì. Io lui passava a Memmi, lo sai, io con 100 watt con la mia 27L e lui con un'antenna corta di Corre con la Firenze 2 mi crepava come nulla. Sì, beh, è normale, se tutto aperto va come se va. Ogni zona c'è il pro e il contro, ogni zona c'è il pro e il contro. Magari li punti e se lo fatto va molto meglio per la zona di giù, va molto meglio. Io qua ancora non ho capito bene per dove posso andare benissimo o così, o accettabile. Non ho ancora capito bene. Allora non so, comunque se ti metti, ti compri una casa di fronte a quella che c'è a Falder, il fratello Russo è suo, che è tranquillo, la linea arrivi tranquillamente alla Maddalena, anche con la mano va addirittura, non so, l'altro. Quindi figurati, la Maddalena, Cagliari, è una cosa allucinante. Ci sono i punti che sono aperti, io mi ricordo sempre quando passavo lì in piano di Comuneria, lo sai, che tu dove c'è da macchino di fronte, in VHS, uno 65 mi sembra che era 4,50, parlavo con la vigilanza notturna della Liguria, in piano, e io la dico, fino ad arrivare alla... Guarda, l'incrocio con San Giovanni. Beh, è aperta quella zona. Ci sono i pro e il contro. Sempre io qua, a molto forte. Adesso magari arrivo più forte anche di qua, a 9,25 arrivo. Non lo so, io ho parlato con Evo l'altro giorno, roba che non ci ho mai parlato in vita mia con Evo, la verità si dica, no? E poi con un tiro di Ginito. Pozzini l'ascolto molto male, ma ce la trovo due, roba che io il delizio lo sentivo il segnale di 8:30, Pozzini, e poi il paesino attaccato prima di Pozzini, ci parlavo tutti i giorni, ci parlavo, Moes, eccetera, eccetera, capito? Poi c'è Montessato, dopo Montessato c'è quella tavolica aperta. Devi trovare il buco esatto, ho capito, devi trovare dove il segnale si infila. Io sono invece dalla parte molto molto più su, se avessi stato un po' più giù come palazzina, dato per dire invece verso la diretta Montessato, sta tranquillo, avrei parlato con un certo Sardegna tranquillo. Ecco, pagato, facciamo entrare questo detto cambio, mi sembrava Franco California. Ciao Antonio, buonasera, buonasera anche Antonello, non so se mi state ascoltando, capo. Sì, a Fungoscala, in occhi, dove sei? Sono il mio QTH, va, volevo sapere, sta funzionando questa radio, tutto lì. Sì, la voglia funziona, e questa qua funzionando, sa. Guarda di positivo, 59 più 20 qua, vai. Ciao Antonello, buonasera. 9 più 20, allora va lo smite inciugato, va. Ehi, 9:30, sì, vai. Ma se sei a fondo scala tuyo, che sei tanto dove ci sei? Vabbè, non vuol dire. Sì, già vuol dire, perché so anche quando sto uscendo. Ehi, capo, non so se Antonello mi scoppia. Aspetta, Antonello. Ti scoppio, a voglia. 9 più 20, sei, ma non altro le 5. Ma sei a casa, al monte, non sei in campagna? No, sono al monte, a casa, e sto facendo delle cosette, Antonello. Ah, per quello, eh. Adesso mi affretto. Capretto, vai. Capretto, capretto, zio, a voglia. Sì, a te, dopo più 35, vai, arrivi bene. Mi varia strano, mi varia strano. Sto facendo con mezzo vatto, Sei sicuro? Ciao. Un bicchiere di 50, mi sembra un bicchiere la mattina, 80 euro. Vabbè, io tu che stai fuori in testa. E tu che quanto ne vuoi, 40 euro in giro. Ma cosa che non si fa nulla, non è bicchiere, ma così me lo regali. Non sai che l'ho trovata quella funzionalità là? Consuma un po' di corrente, già è buono l'amplificatore, ma consuma un po'. E che cosa che consuma? Per rinviare a valvolare. E chi ce l'ha? Sì, non lo so, io ce l'avevo e ve l'ho venduto. Ciuccia. Ciuccia sì. Ma a tamburrinare però. Sì, lo so, a tu. Prova a bovacchio 747, cos'è? Chiaramente non c'avrà la potenza di quello. Io c'ho le valvole ancora, ne ho 6, ne ho 4, mi pare, 4 o 5, una cosa del genere. Gli altri li avevo regalati a costo. Del giambo, mattino. Ah, ho capito. C'è qualcosa per fare, il mio 2000 euro l'avevo regalato, già te lo ricordi. Sì, rivedi tu. Ma quello funziona, Vale, quello valvole? Sì, il 2001. Ah, mi ha detto Tino, dice che quelli lì era proprio sballato, che gli ho dato, capito? Ha pensato delle piste, mi ha detto dietro, non so. Quindi pensa che gli ha fatto di cuccio con la penna e ha bruciato. Le valvole sono a posto, ma le piste proprio dietro, dice che era una cosa vicina. Ho capito. Io ho detto, se lo voglio, ce l'ho il mio bucciato 31. Ma non me ne faccio niente, Antonio, capito? Hola, hola. E Lucia. Io già c'ho uno spidi CTE di qua. Una valvola americana. Ancora funzionante, grazie a Dio. Il problema è quello. Con questo apparecchio non vedo niente, sto arrivando lì da te. E quanto arrivo adesso, Antone? Due, tre. 9:25 quasi. Sì, già, va bene, dai. Sì, già c'è la differenza, che... Vai! Ma voglia c'è la differenza, ci mancherebbe. A farlo scaldare il BV. E tu sei d'accordo, Antonio? Tu guardi un po' quanto arrivo, aspetta un secondo, me ne vado un altro canale. E accorda, accorda. Io ho già accordato, ho già. Questo qua è quello, il BV. Il BV 131. Sì, 9:22, sì, non è che sei molto, a quello è freddo. Mi fanno scaldare almeno 3-4 ore, già lo sai che tu. Infatti devo fare scaldare, che è freddo ancora. Io qua ho buttato il lineare, da 150 watt, figurati. Io c'ho la bombola americana, però, c'ho le L509 e le 519, c'è proprio l'originale sua americana. E che cos'è quello? Lo Spirit CTE. Quella che c'ho io con Bomberante è la valvola. Ma tu hai visto quello al telefono? Quello è quello che abbiamo di sotto lì, che ti serve anche per il visore. Guarda un po' Antonio. 25. 9:25, ancora è freddo, dai, faccio scaldare. Farò scaldare piano piano. Lasciami levare un po', levate. Lascio così, dai. Qualche già l'attacco io il coso qua. Il 140 allo spedicitino attacco. sono quello per cui disturbo, è un casino, capito. Però ne vai la candela già la sassa, hai capito? Vabbè, prima c'era la lira, il discorso del verso, ti divertivi, adesso c'è l'euro, c'è poco a divertirti che adesso. Adesso se cominci a pompare, a mandare la sera, non ti preoccupare che arriva a 1200 luce e sono cazzi tuoi. Tutto per quello. Che più bei fatti e più consumo, hai capito? Problema è quello. Io lo chiamo io la base 100. C'ho andato a transistor, quello avevo sistemato. Quando ci avevo adesso mi metto i soldi da parte. Prendo e. No, non ne cambio nemmeno il finale, faccio direttamente tutto quello che c'è dentro e piazzo il finale nuovo, tutto nuovo, capito? Piazzo un bel 750 all'interno, lo alimento, non c'è bisogno manco di battement, mi metto il battement del rosso, metto sono a posto, e là è una bomba, ma si è fuggito, ciu. Chi è? Ehi, Antonio, chi sei? Sono qua. Ti stavo dicendo, ecco qua. Hola. Eccomi qua, sono arrivato. Che mi è squillato il cellulare, capito? Ho capito, mi ha squillato il cellulare, ha squillato. KK. Comunque mi sta dando molte soddisfazioni questa GPE. Che poi sarebbe una 27L, sono precisi, dai. La bazooka ce l'hai conservata ancora. Come? La bazooka ce l'hai ancora conservata. Oh, non so neanche dove sia. Come ti sei fatta? Dovrei avere, ma non mi ricordo dove. Forse sul suo palco, ce l'ho. Mi riusciva bene, mi quella lì. No, forse la bomba che c'è, mi sembra che avevo, la bazooka era. Si chiamava Storm, quella della cosa, della Midland. La Storm 27, sì, è vero. Se ti dico quanto voglio una grampetta, metti le mani in testa, io, dimmi un pezzo. Quanto noi vogliamo una grampetta? Se te lo dico, non ci credo. 100 euro? Sì, 100 euro. Sono arrivato... superata 50, gli ho detto, mi sembra che era quando abitavo a 100 studi, gli ho detto. L'ho pagata 50, gli ho detto, e mi è durata neanche una settimana. E l'avevo regalato tutte a te, se ti ricordi. Te la ricordi quella bella? Sì, sì, che poi non la potevamo montare, sempre sul testronzate, capito? Cazzo, quando l'ho comprata, ma sei sicuro che andare a fare? Sì, non ti preoccupare, tu devi stare tranquillo, cazzo. Cazzo, una piazza sopra il tetto, arriva questa passata del vento, non ha picchiato lo stilo, cazzo. I radiali, l'unica cosa che è bello c'era il montare il radiale orizzontale, oppure a 35 gradi, quello andava bene, cioè in pratica potevo fare due frequenze, bastava fargli la modifica e si poteva utilizzare per la VHF. Sì, me la ricordo. È che non l'ha voluta montare, babbo, cioè sempre con le sue teste ronzate. Se no già ce l'avevamo. E poi l'avevo data una persona, l'ha usata per tanto tempo e andava bene. Infatti, io l'ho usata e... l'ho usata, due mesi, tre mesi, non di più me. La te lo ricordi anche tu. Infatti poi mi avevo comprato una tantella, l'avevo comprato. E poi non ce la faccio perché ho detto, in questo momento le manuele, appena salgo questa cosa, cazzo, che è piegata, cazzo. No, non è possibile, io ho detto. Allora, l'ho comprato... volta che l'avevo comprato, una tantella l'ho comprato, e quando sono andato a Piazza Alla sono andato appeso nelle si chiama, perché ho messo la scala e quella mi ha messo la cera, cazzo, quella ragazza brasiliana, e sono rimasto appeso come si chiama, dello scarico. Cesso, ti stavo dicendo, quella lì però non era l'emme originale, era una vutitura, cioè quella lì era, mi sembra che era Sirio, non era l'emme. Non me lo ricordo, cioè, se era Sirio, cosa diavolo, ma usciva, usciva bene, la verità è che usciva bene, però quando salivo il corso Vittorio Emanuele a piedi, mi vedevo questa cosa, questo stile storto, non lo potevo vedere, guarda. Infatti l'avevo subito staccata, sono salito sopra e ho detto non ce la faccio manco a vederla, ho detto va bene, ho preso, ho cambiato antenna. Già me lo ricordo, Antonio, me lo ricordo bene. Immaginate, se ti compri un'antenna di, non ti posso dire, una via 27 e le cazzo per non venire a te, ti ho visto da cazzo, ma la posizione di eredità ti ho visto da un fianco. Cazzo, cosa pensi, cazzo? È brutta anche la vera, sono nato, sono contento. A un certo punto mi dava un fastidio, cazzo. Ho detto, guarda, se la vuoi, l'antenna, guarda, funziona bene, i radiali sono a posto, eccetera, eccetera. L'unica cosa è lo stilo, cazzo. Lo stilo, cazzo, di cazzo, che va l'atto, cazzo, leggero, leggero, leggero, cazzo. Al primo momento si era piegato. Chissà se esiste ancora, perché l'aveva data papà, perché non si faceva niente poi, quando si poteva ancora snivare a me. Chissà se c'era ancora quella persona. Non so, credo, ma comunque cazzo, era una cosa allucinante. Qui avevo pietro la B27, l'avevo comprato e quella ci andava bene, la verità. Poi da lì avevo piazzata da qui, poi avevo comprato la manta, la manta da turbo, e la via 27 avevo data a Mario su Alberghiero, e poi non so, gli avevo dato il baracchino, l'alimentatore e l'antenna, il cavo, non l'ho mai usato, non so che se ce l'abbia buttata, cosa cazzo abbia fatto. Voleva in pratica che gli regalassi due portatili per andare a coso, a caccia, gli ho detto, ma per cosa mi hai preso? Ho detto, per scemo, gli ho detto. Ho detto, vai, come si chiama? Ho detto, recuperi. Cazzo, perché te li volare io, ho detto. Dopo che ti ho prestato, gira e ti piglia anche la parte grande che ti avevo pure regalare, tu sei tutto scemo, gli ho detto. Sì, già è strano quel tipo lì. Lo so che è strano, infatti già. Cavolo, il baracchino che ti ho dato, l'alimentatore, ho detto, a me non mi vedi più. Ah, te sei 43 mesi in testa, gli ho detto, mi devi manco telefonare. E tu non devo manco telefonare, dopo mi detto, nel balle per dirmi cazzo di. E ti avevo avvisato che mi servono le portate, gli ho detto, per fare, gli ho detto, un servizio, e la cavalcata santa per l'attenzione. Tra voi, gli ho detto, guarda che sto pigliando le portate, mi serve per fare il servizio, gli ho detto, ma va bene, e beh, lui era per i cazzi suoi, in pratica, parlando gli amici suoi, io ho il telefono alle 9:30, mi fa, dove sono i portate? E tu ce li ho io, in parola, adesso sono io, perché? Gli ho detto, qual è il problema? E mi dovevi avvisare, ma scusa, sei scemo, gli ho detto, i portate, gli ho detto, sono i miei, prima cosa, gli ho detto, avevo detto, adesso finché non li uso io, gli ho detto, che il discorso è diverso, mica ti sono regalati, prima cosa, li ho pagati io, ho detto, 30 euro, ho detto, se vuoi te li cubri, gli ho detto. Sì, è tutto strano, è un personaggio che veniva a pigliare la bombola da noi. Già lo so. Non è bello dare e poi non ricevere. Sì, ma io no, se posso aiutare una persona io posso anche dare, regalare, quello che è, non è un problema per me, hai capito? Però cazzo, a un certo punto se te lo presto tu per te, no, non va bene. mi dispiace per lui, a me siete coglionate, non in vanno. Capito? Ho votato qualcuno, mi sono ripreso gli apparecchi portati di miei, gli 2-5 di tutto, se avevo pagato allora intorno ai 40 euro, 40 euro mi sembra avevo pagato. No, tutti e due 40, 50 euro avevo pagato, 25 euro l'uno. Programmati, avevamo programmati male. Cazzo, voleva il regalo gira a gira. Ci aveva preguntato a merito se vai a cacciatore, ho detto vai, se vado a cacciatore, vai, mina, è cinese, ce ne sono due, te li compri, noi sono di tuoi, ne trovo come sono i miei. Cazzo, me la vai, ho detto. Non so già. Avanti. Chi è che fischia avanti? Ogni tanto è da qualcuno sparisce, tu? Tu vai a frusciare, Simone. Io già lo so, ogni tanto fruscia qualcuno, poi sparisce, non è niente. Mettiamo il filtro, va. Non me lo casino ho fatto. Franco, chi sei? Guarda che fine hai fatto. Io riprendo subito, stavo scolando alcune cose, no? Franco, ma dico le antenne vecchie per la macchina, ne hai ancora, con Fra? Di quelle che c'avevi quando stavamo facendo le tatture e cosa del genere, di così? Di che cosa? Quelle antenne modello vecchio, che non ti servono, hai capito? Mi servirebbe un'antenna, una basetta, per costruire una io. In pratica la affronto e gli metto la carica io e la faccio nuova, hai capito? Devo guardare, devo controllare ancora. Devo vedere un po' il soffitto quando salgo. Fammi sapere qualcosa, se ce l'hai non c'è problema. Se ti serve qualcosa da qua te la prendi, no, non è quello. Hai capito? Quindi non c'è problema. Mi serve solamente per farmi tre autocostrimi da antenna. Mi serve uno stile, una base. Completa col caffè, basta, non mi serve nient'altro. Una volta avevo fatto la... ho preso, già se lo ricorda anche Antonio, avevo fatto la bazooka smontata. Non era come quella che c'è Antonio, naturalmente, però era appena più stretta. E avevo messo il cavo elettrico da uno e ha fatto 5,50 di avvolgimento e l'ho portato alle palazzine 1 e 1. Poi l'ho preso e l'ho portato giù da Licco, l'ha messa sopra la casa della birra con baracchino e gli avevo regalato un Intec e poi arrivava numero più 20. E ho capito. È vero un po', dai, devo salire su per vedere se c'è qualcosa, ho capito. Va bene, non c'è problema. Quando vuoi dimmelo, già sono qua. Mi serve solo per fare le modifiche, non mi serve per altre cose. Per costruirmela io, in pratica, c'ho un trasformatore di quelli da 24 a 12, aspira stagno, ce l'hai presente, come se tutti i tuoi... Sì. Vabbè, 5 già ce l'ho ancora, l'ho conservato. Ci vorrebbe solo, come si chiama, per aspirare. Il motore ce l'avevo buttato, peccato. Il compressore qua ce l'aveva, in pratica. Quello andava bene per il cuore, per le orecchie, per togliere il cerume. Sì. Se no acquisto le faccio, mi compro la scala, mi compro, perché almeno ci sale molto più sicurezza qua, mi compro la scala a 5 metri. Dove sei tu è un casino, mi qua parato, stavo fuggendo, dove sono salito e deve essere senza pancia, se c'è la pancia bisogna che ci sia uno che ti tira giù. Se no cazzo la pancia tocca il tetto e dal tetto come si chiama devi cercare dove cazzo la scala ed è un casino, ci vuole uno che ti dirigga in quella specie di finestrelle che ci sono rettangolari, ce ne sono due che io mi ricordo e poi va piazzata proprio attaccata alla ringhiera delle come si chiama, che c'è giù. Lì dove sei tu è un casino a salire, insomma, c'è voluto, guarda, la regola, una bella scala a chiocciola piazzata lì, attaccata alla finestra al momento opportuno, con la porticina, sali sopra e poi scendi giù, poi per me sale l'angolino, no, potrei essere dove adesso. No, ma almeno sì, lo so, ma almeno una scala più sicura voglio comprare appena che mi arriva qualche soldo, perché almeno anche chi sale no, cioè, sale molto più tranquillo, capito? Quindi me la compro, me la faccio ordinare da lui direttamente, almeno una cosa più, perché già li fa meglio di me i siti. Sto dicendo, adesso sono stato 3 volte in quella palazzina, quando salivo su mi cagavo sopra, guarda. Cioè salire è una cazzata, ma scendere, ragazzi. Andava a chiamare, cazzo, a quei tre rincoglioniti, cazzo, peggio della sorella, cazzo. Andava a chiamarli, cazzo, non ti rispondevano. E io mi dico, gira, cazzo, rimango qua sopra, cazzo, devo chiamare i pompi da farmi prendere, gira. Dice, va bene, fa la prossima, no, non si vede niente ancora, aspetta un attimo che devo regolare. Come cazzo deve regolare le balle, gli ho detto, una cazzo non c'è che la palla con la matta, ma gli ho detto. E dopo così su, così almeno, dopo così su un cazzo, gli ho detto io lì. No, ho capito, non mi sta pagando, no, ah, ce la faccio a fare qua su tutto il giorno. Le cazzate della palla buona tu, gli ho detto. Assurdo. Cos'è questo? Delta Tunnel, cos'è? Quello, Delta Tunnel serve per ricezione, c'è scritto più e meno, così è, più da una parte e meno dall'altra, qui c'è il centro. Serve in pratica per ascoltare le persone che sono appena state in ricezione, in AM, capito? Ho capito. Sicuramente mi sembri che io ti ascolto tutto quanto strano, ma tu mi ho sentito bene, a te ti sento strano. A me mi senti strano. E adesso strano mi sento. Adesso va bene, ma poco fa ti sentivo come, non ti capivo la voce, era tutta masticata, no, a tu. No, un po' così, ma... Infatti io dico, ma sicuramente vedi fuori frequenza, o stavi usando qualche microfono troppo, si sentiva tutto il sottofondo lì. Il microfono amplificato stavo usando, aspetta che lo tocco, metto il microfono normale. Ma con tutta la mondezza sul microfono, no, a tu anche ti ascolto bene, ma lui lo sentivo con la radio masticata. Comunque lo senti bene, dai. Ma te sì. Così va meglio, sì. Comunque l'ho provata quella funzionalità, l'ho fatto rosso. Mi sentivi come se fossi tipo così, là, senza processore. Esatto. Già ho capito, me ne sono reso conto subito. E il microfono che me la fa, aspetta. E mi ha messo. Adesso sono 40 watt. Si sentire benissimo. Forse l'ha fatto lui. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Adesso va bene. E salerta, capito. È troppo forte per questa palica qua. Ma dove l'hai adattato sul K? È l'una. Dai. Cazzo, è uno mio, non ti credi, se lo metto a 5 ti ammazza. È uno. Forse attacco l'MPU, cioè l'M52 mi senti benissimo, anzi no, l'M55 della ZG. Ma secondo me è troppo forte quel microfono, lui ci vorrebbe un MC60. Ui, se mi senti con quello, per carità, ragazzi, mi dici di buttarci il baracchino. Se vuoi uno di questi giorni fare la prova, vieni qui a casa e lo provi con l'MC60, vediamo come esci. Lo provi tu stesso, no? Non c'è bisogno che te lo dico io. E facciamo la prova prima con la voce tua e poi con la voce mia. Ma se lo stai usando l'MC60 tu non ce l'hai? No, ma è preso l'MC60, me l'avevo comprato il primo giorno che ho preso il C80 e faceva schifo, non so a sentirlo, per carità, e l'avevo dato in pratica in cambio dell'alimentatore che c'è ancora qua a casa. Sì, ho capito. No, questo va bene, anche se ci butto l'MB più il panel più 3. Va bene lo stesso, no, io lo sto usando l'MC. Già ho capito. No. Io sempre Saverta. Capito? Va benissimo come microfono, naturalmente devo regolare, io so che quando appena lo accendi il 140 o eccetera eccetera è fatto così. Io come sto uscendo? Da certo. È più tre adesso qua. Ciao, già, buonasera. Buonasera. Buonasera, Gianni. Come Gianni? Sì. Avete parlato in due? Ciao Tore, ciao Vicente Franco, buonasera Tore. Ciao Giovanni, ben sentito. Ciao Marto, però ci sente voi che mi sentite? Aspetta, Califfo non mi sente, perché è mezzo sordo lui. Ciao Giovanni, buonasera, già ti sento. E beh Fra, come se la va? Tutto bene, tutto bene, tutto se va, se va. Meglio lo dica, non può credermi. E beh, tu? E tu mi stai facendo sordo, a tu? Addirittura, Giovanni. Va bene, bella chiara la radio, forte ma bella chiara, Arrivate tu per tre bene, dai. Fanno bene la radio, dai. Kappa, come la sto usando? Forse la radio che funziona meglio, no? Va bene, a sentirsi bene, perfetto, da me, a chi siamo vicini, vuol dire va bene, certo, ti sentiranno anche bene loro. Come lo senti fra Antonio? Io mi ascolto benissimo Antonio, a me bene mi ascolti a tu. Benissimo, benissimo. E Giovanni, io sto usando la Fayette, più tre. Ma va bene fra, vanno tutti bene, cazzo, siamo a due quarti di grappa, cazzo, tutti e tre, cazzo. E io sto usando il 6009, sto usando, cazzo. Ma vanno tutto bene, com'è a tre? Perfetto, perfetto. E tu già lo sai, cazzo. Ah, questo sembra così, ma è perfetto sta radio. Non ha cosa ci avrà? 8-10 ore di funzionamento questa radio. Va benissimo, dai. Ma a me questa radio digitale non mi piacciono, Giovanni. Lo so, cosa devi fare, non ce ne sono più vecchi. Cazzo. Come si chiama? Quello di campagna, cazzo. C'è una ricezione più bella come si chiama? Di quello da base, cazzo. Ma ancora funziona bene quello lì fra. No, vanno bene quelle, ma a me quelle radio digitali non mi sono mai piaciuti, capito? Vabbè, questo c'era partito il finale della ricezione. Apparisce nuovo, è partito il finale della ricezione. No, ho cambiato ed è perfetto ancora. Il mancato di che avevo questo che non funzionava, me l'avevo comprato un altro. Erano due nuovi. Riprendi già. Giovanni, comunque in quelle apparecchie là bisogna stare molto attenti. Perché quando lo prendi, prima di accenderlo bisogna aprirlo. Perché da te mancava l'isolamento del finale. E in più all'interno e all'esterno, hai capito? Ecco perché come l'hai acceso è partito immediatamente infusibile. Hai capito? Tutto lì, solo per quello. Se no gli hanno messo solo la pastina, hai capito? Tanto per dire, appena scaldato la pastina che è andato il finale in corso. Tutto lì, anche perché nel TDA 2003 monta l'isolamento, monta nello chassis, addirittura anche nella vite dove va agganciato, c'è il ferretto, va messo il dadino e la vite dalla parte opposta. Infatti non ha avuto più problemi, scalderà, perché deve scaldare, naturalmente il finale appena appena, però non trovato più quel problema che è nato in corso e faceva clac clac clac, sembrava un moto picco. Ma sta funzionando bene adesso, non scalda Antonella, non scalda, oggi era tutta la macchina accesa. Tutta la macchina accesa era, per cui sta funzionando sempre perfettamente. Cosa vuoi pretendere? Poi già lo sai che ci siamo noi e ci possono guastare loro. Per cui quando si vede, ma via di rullato, cosa mi fa? Adesso questo si è già funzionato bene, per cui sono tranquillo. Poi cambio, faccio il cambio, io un altro nuovo nome che hanno fatto l'altro giorno, per cui va benissimo. Guardi di questo attacco l'altro, vai fra. Si conferma, vai. Oh, yeah. Io immagino di che radio, ogni tanto l'accendo, perché sennò si arruinaggia. E vedo che ne hai 10.000 e poi ne usi sempre una, capito? Ma è come se 3.500 in campagna, due o tre anni e più, magari fermo. Caccia, l'ho portato qua, di un bambino. Ma non basta che Maria. C'è una recensione, bene ragazzo, ma fortissima è. Caccia, e lo sa voi, se puoi vedere 35 anni ce l'ho quello lì. Ma per chi non è quello non ne fanno più, capito Giovanni? Adesso fanno bombette blu, la nuova tecnologia, magari dai. Ho visto quei baracchini che stanno facendo adesso, metto quel circuito stampato che fa schifo. Cosa? Vai Antu. Vabbè, moderni sono, magari si guardano molto più in là. Faccio così che. Ma sta funzionando bene, per cui tranquillo, vai. Lo so, così, la roba moderna, così. Non fa niente, c'è la scheda, ma se invece perché quelli di prima, tutto pieno, viene poco di marasucci, invece questi qua no, non c'è nulla. Oh. Quelli di prima si possono modificare per fare quello che vuoi, quello era adesso. A montare il TDA, la verità 2003, il finale della serie che si usava una volta nelle. Quell'interno della macchina era una cosa proprio stupida, non ho capito perché, non era un amplificatore, hai capito? Le montavano gli amplificatori per avere 30-40 watt, le montavano 4, 5, 6, tutti in parallelo per avere 50 watt in uscita dall'amplificatore, oppure un mix, il discorso è quello lì, stavano usando in pratica finali vecchi, potevano usare quelli a pettine, forse un finale a pettine sarebbe stata una cosa totalmente diversa, invece stavo facendo le radio così, chi se le compra deve sapere ciò che c'è dentro, a un certo punto non ne prende più, perché gli SMB fanno schifo, una volta che scada il pezzo, che si incendia, boh, ce lo butti, oppure se trovi uno bravo che è bravo in telefonia, ti stacca il pezzo, ti metti il pezzo nuovo, lo pagherai, se no, 4, 5 euro, 10 euro, quello che costa il transistor e l'apparecchio ritorna come prima. Sì, infatti. Questo c'ha 12 watt in AM e in FM in banda c'ha 40 watt. Ok, se non mi servo a me cosa va. Facciano 4 watt anche troppo per quello che lo uso io. Però c'hanno la 12 e 40. Cazzo, vanno bene questi. Vanno benissimo. 200 bisogna attaccarne. Oh, ma c'ho. Bisogna attaccarne 200, bisogna attaccarne. Non 40 watt sono pochi. E cosa ne fai 200? Cosa ne fai? Cazzo, ma è la tua. Sì che siamo nel 2025, mi sono. E per cui cosa ne fai, cazzo, tutta questa potenza? Che con 5 watt fai 10, sei cazzo di mare e viaggi. Stiamo funendo, sogo. Va, diglielo, cazzo. Oh, via. Vado bene anche un 5 watt a fare 10. Poi, se uno lo vuole mettere, però non vale la pena, ecco, vai fra. E dentro di Camari che hanno dato crepa durare metà d'ora, io vi sa radio, vi va più io. A puntava lì. Cazzo, proprio a metà, no. Proprio a metà, tra me, cazzo. Stavo facendo. un po' di travaglio, questi di fuoco che si ragazza, tra me, da un lavoro all'altro, a te. Cos'era? 240, come cosa era? E 440 era. Certo. E qualcuno dice, ehi, sta portando di carri. Capito? Cazzo, la campagna fa di fuori quando fa la pittura, cazzo. Che tempi, via. Hai fatto molti collegamenti. Adesso no, cazzo. Oh, ancora ce la mangio, fa dritta. C'è sta radiale, però è tutto a caricare il stazionario in quell'albero, fra. E beh, avrei perso tutti i radiali pure lì. Ci mancheranno i radiali, così, eh. E tutti i radiali, cioè, ma che me l'hanno spacciato tra le colonacchie, capito? Però lo cibo è buono ancora. Tra gli stazionari ci sono, per cui infatti quell'apparecchio, il codice, l'ho portato su, non è entrato più in campagna, me l'ho portato qua e va bene. E chi ne tocca adesso quell'azienda? Se c'è stazionario c'è il rischio poi che si bruciano pure i finali, quindi meglio non rischiare. L'imprenditore poi fa girare, non so che altro ci sia, poi Antonello, poi Antonio, mi pare Vegliani, non so cosa è in stand-by. Sì, conviene con la mantova lì fare dei fuori con delle viti, comprare un po' di cavo elettrico e rifare i radiali direttamente a mano a discesa, come fanno gli arrematori in quelle antenne. E li metti il picchetto in terra, li metti quattro radiali, li cattate in terra e vedrai come pompa. Chi è che stava chiamando sotto? Avanti. Che la tocca a Dio, Santella. Non faccio più l'albero, che è messa sull'albero d'olivo, cazzo, la butta di una sa che fa. E per me gli lascio, Il fracco già l'ha vista, ma non ci sento più, scendo così tanto per fare qualcosa, ma attaccare il baracchino no, ma l'ho portato a casa, per cui non mi interessa più, capito? Ma si vede, oh, cazzo. Già l'avevo fatto, fra, diglielo. Ma a Buglia, mio marito, altri tempi erano, oramai non c'è più nessuno. E diciamo, spendere su in questa cosa non ne vale più la candela. Vabbè, ma ormai che ce l'abbiamo, che li usiamo quando è possibile, quando tanto è tutto pagato, per cui non ci chiede pane, capito? Per cui ce l'abbiamo, quando vogliamo ce lo usiamo, tutto lì, certo. Perlomeno, a me non è che mi piace più stare, basta 10 minuti la sera, qualche volta durante il giorno, ma adesso non c'è più nessuno, ci chiede basta la sera, 10 minuti e sono a posto. Vai a tu. Capo, ho sentito qualcuno sotto, ho sentito poco fa. Chi è che voleva entrare avanti? Vabbè. Riprendi tu, Antonio. Qualcuno vuole fare la prova, se vanno due, va più che altro. Sono tutti al mare, a chiappa a moglie, ragazzi, si che sono tranquilli, dai. Adesso rifrescano. E noi invece siamo a casa, ragazzi. Cioè, se la mare c'è la rietta, oggi si sta bene. E da te, Franco, ci tocca parecchio, No, qua si sta bene. Ma c'è mare brutto, non penso che... Non mi viene fuggita da mare, te la buttate pure l'ombrellone. C'è tanto quest'aria degli ombrelloni li porta via, Stai tranquillo, per me non si rimbuccia, Il mare è brutto, non penso ci sia gente al mare. Ce n'è, più di uno ce l'ha, sarà pieno magari un attamolo, cazzo. Ma penso che lì ci sarà parecchio vento, Non lo so com'è il attamolo. Io so che c'è mare brutto, un bel. Sì. Però a me non mi interessa il mare, per cui sono tranquillo. Capo, mi interessa Antonello. A me? Non ci vado al mare io. Da quando mi sono trovato le veste attaccate a pisellino, non ci sono pensato, sono a 1025 anni. Ma c'è Pepe con quelle macchie che ho io. Marco Moto c'entro io in spiaggia, a vedere le veste addosso, non sai abbigliare in culo. Se c'è qualche patologia va, meglio non andarcela io, sono da parecchio che non sto qua acqua di mare. Al pisellino. Con la cabina al stesso pezzo. Ti puoi immaginare? Ehi, la lagna, quindi, la mangiato un pisello. E non ci fa nemmeno a trattavola. Una volta sono andato a mangiare in massa la rotta, ma a toccare l'acqua, oh nemmeno fare. No, non mi piace più. No, mi piace più, gli abbiamo